www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci via streaming. E questo spazio dovrebbe essere anche per oggi, appunto, l'ultimo live, diciamo, in diretta per questa emittente. Poi ci sarà il compagno automatico e poi domani mattina si riprenderà con la rassegna stampa. Ricordo che fino al 30 settembre c'è ancora la possibilità di aderire al nostro crowdfunding. 30 euro per 1000 ascoltatori. Andando sul nostro sito ci sono le varie modalità di adesione. Peraltro molti di voi lo hanno fatto e vi ringrazio per questo. E vado a salutare Anna qui a Roma, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Jess che ci sta ascoltando, se non erro da Catania, ancora al sud Doriana da Taranto, Eugene Vintras del progetto Gin, Dez De Carlo from Boston, USA, Maya e Nicola Locci della Sardegna. Simone Scalise di Audio Chaos, Dark Wave Calabrese, Orlando Furioso dal Piemonte, Massimo Oders Mascheroni, ovviamente del progetto Oders. E poi Like Week, storico progetto Ambient, Francesco Cornelio in quel di Bergamo. Noise Cluster nella persona di Flavio Derbecante, Valerio Michetti della Grazia Obliqua, Dario Arrighi di Progetto Non È Malpari di Sara Capo Fontana. Iniziamo proprio con un progetto italiano. Si chiama The Star Pillow e ormai è la terza volta che lo mettiamo qui a prove tecniche. Paolo Monti è artista toscano che incide per la Dissipazio, che se non ricordo male è un'etichetta invece proveniente dal Veneto, fondata da Nicola Quiriconi. Gli spazi sperimentali e dilatati di questo lavoro dal nome We Were Never One. E questo lavoro si va a chiudere con la lunga You'll Remember This Encounter Forever. Thank you. Queste settimane dunque abbiamo conosciuto The Star Below per quanto riguarda questo album We Were Never One, progetto di Paolo Monti, un progetto che esce attraverso la Dissipatio Records di Nicola Quiriconi. Effettivamente un'ultima traccia con del post rock contemplativo che poi dopo 9 minuti è scoppiato quasi in un fiume di psycho noise che andava a concludere questa lunga traccia. Qui si chiacchiera su Facebook, Facebook peraltro sempre qualche problemino, qui in genere si impalla alquanto e quindi per leggere tutto quello che voi scrivete devo a volte inventare degli espedienti molto semplici, ma comunque saluto Dario Righi appunto di Progetto No Name, Arianna Di Lombardo di Noise Cluster, anche se Sara K.O. Fontana, una buonasera anche a Filippo Panichi, valente musicista del sotterraneo italiano del quale ci ascolteremo qualcosa tra qualche minuto, Cecilia Miradoli del Progetto Pindar, Giulia qui a Roma al pari di Serena. Ancora Italia e come al solito avremo una grossa fetta di produzioni italiane qui a Prove Tecniche di trasmissione. È il turno di Boschivo di Emanuele Fais. Già in passato lo abbiamo apprezzato anche come Pioggia d'Ambra. Questo è il bardo dell'autodistruzione, un album che si dipana, si sviluppa su del lisergico neofolk e sprazzi di sperimentazione che rendono questo album particolarmente interessante e particolare, suonato e cantato interamente dal buon Emanuele. Allora ci ascoltiamo Il rituale delle mosche, Essenza di te con S tra parentesi e poi Senza di te, un gioco di parole, e la distorta Luna sterile. Yeah. risvolti neofolk particolarmente ipnotici e lisergici, dunque, per quanto riguarda Boschivo e il bardo dell'autodistruzione, questo album di esordio del 2019, sia attraverso Laurel Temple, sua etichetta di Manuele Fais, e anche attraverso la Totten Schwan. Effettivamente belle atmosfere, languide, malinconiche, aggiungo io anche malate, nel senso positivo del termine, nel senso artistico, come tutti noi sappiamo. E adesso ce ne andiamo nella vicina Slovenia, naturalmente l'Aibach, probabilmente il progetto più famoso proveniente da laggiù, in attività ormai da più di 40 anni. E nel marzo del 2022 è uscito questo Wir sind das Volk, è un musical aus Deutschland, una sorta di musical, evidentemente anche una colonna sonora di un musical dedicato alla Germania attraverso gli scritti di Anner Müller e Bertolt Brecht. Allora, questa sera è il turno della settima e ottava traccia, Lessing Oder das Ende der Aufklärung e Traumwald. Mein Name ist Gotthold Ephraim Lessing. Ich bin 47 Jahre alt. Ich habe ein, zwei Dutzend Puppen mit Sägemehl gestopft, das mein Blut war, einen Traum vom Theater in Deutschland geträumt und öffentlich über Dinge nachgedacht, die mich nicht interessierten. Das ist nun vorbei. Gestern habe ich auf meiner Haut einen toten Fleck gesehen. Ein Stück Wüste. Das Sterben beginnt. Beziehungsweise es wird schneller. Übrigens bin ich damit einverstanden. Ein Leben ist genug. Ich habe ein neues Zeitalter nach dem anderen heraufkommen sehen, aus allen Poren, Blut, Kot, Schweiß, triefend, jedes. Die Geschichte reitet auf toten Gäulen ins Ziel. Ich habe die Hölle der Frauen von unten gesehen, die Frau am Strick, die Frau... 30 Jahre lang habe ich versucht, mit Worten mich aus dem Abgrund zu halten, brustkrank vom Staub der Archive und von der Asche, die aus den Büchern weht, gewürgt, von meinem wachsenden Ekel an der Literatur verbrannt, von meiner immer heftigeren Sehnsucht nach Schweigen. Ich fange an, meinen Text zu vergessen. Ich bin ein Sieb, immer mehr Worte fallen hindurch. Bald werde ich keine andere Stimme mehr hören als meine Stimme, die nach vergessenen Worten fragt. La scultorea bellezza, la marmorea bellezza di Laibach. I Laibach che infrangono ogni confine musicale riescono ad unire le ultra oscure atmosfere della prima traccia che ci siamo ascoltati con un afflato più neoclassico e molto raffinato della seconda traccia, finita Odora. E comunque Verse in the Dust Folk rimane, per quanto mi riguarda, uno dei migliori lavori di questo 2022, ma d'altronde i Laibach hanno sfornato dei capolavori soprattutto nel passato, ma comunque anche negli ultimi anni album molto molto interessanti, compreso questo. Si saluta Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta, Ant Christ del progetto Omicidio, Alicia Sardina da nostre parti, Dario Righi che pulisce la lettiera del gatto, intento anche lui a godersi Laibach. È il momento di andarcene in Giappone, andando a sfruttare chiaramente una delle innumerevoli antologie e compilation di Raffaele Pezzella attraverso la sua Nestle Sounds Group Production. Questa Anthology of Experimental Music from Japan, e anche questa sera due altri artisti a me sconosciuti, e non è facile conoscerli indubbiamente. Uno si chiama Fuguli e ci ascolteremo Drops in Tokyo. Il successivo si dovrebbe chiamare MC Lass, e poi c'è tutta una scritta in giapponese che io chiaramente non ho i mezzi per tradurre nella sua interezza. La cosa sicura è che ci ascoltiamo altri due episodi del Giappone più sotterraneo e sperimentale. Le schegge impazzite dunque di Fuguli Drops in Tokyo. Invece questa è una qualcosa di più teatrale e mantrico, appartenente a Amci Lass, sul quale saluto Sisto Palombella e Alessandra in quel di Mentana. Thank you. la sghemba rumorosità di questo progetto a più mani che andava a chiudere la compilation dedicata al Giappone, ideata da Raffaele Pezzella, effettivamente diplofonici. Grazie a Jean-Claude Bertot per aver trovato un termine direi adatto, ed è interessante come dice Bonsisto, il valutare se poi in realtà ci sia molta ironia in tutto questo assemblaggio di suoni. Il Giappone è un pianeta a parte da molti punti di vista, e quindi anche la cultura ne risente. Ricordiamo anche i vari artisti del campo del Nippon Noise, per esempio, ma anche il loro amore per esempio per Easy Listening italiano, il loro amore per Fausto Papetti e tutta la musica italiana degli anni 60, fino a concepire partiture di questo tipo. Ebbene, dopo il Giappone e i vari gatti che chi più chi meno reagisce a queste sollecitazioni sonore, noi torniamo in Italia, andiamo appunto da Filippo Panichi. Filippo Panichi è un artista sotterraneo che però ha prodotto una serie interessante e notevole di lavori. Lui proviene da Firenze e cominciamo a conoscerlo questa sera, e lo faremo anche in prospettiva, l'ultimo lavoro, un breve 4 tracce dal nome Another Idea All North, che prende ispirazione da un musicista ma anche agitatore culturale dal nome Glenn Gould, credo proveniente dagli Stati Uniti o Gran Bretagna, adesso non ricordo, magari ce lo dice Filippo, e che faceva anche degli interessanti spazi radiofonici negli anni 60. Ebbene, questo personaggio ha ispirato in questa occasione Filippo Panichi, e quindi ci ascoltiamo queste 4 brevi tracce dal nome, e lo dico in italiano, 31 A 7 B3 e CG, il tutto da Another Idea All North.